Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Secondo l'OCSE il PIL italiano sarà in contrazione nel 2014, meno 0,4%. Andamento deludente, dicono da Parigi, anche per Germania, Francia e Italia. La scuola al via, Renzi a Palermo, tra l'altro fischiato. Siamo qui per spazzare via la mafia, dice, ma si parte tra buchi per supplenze non assegnate, carenze di materiale, classi sovraffollate. Si prepara l'intervento militare in Iraq, partono i primi voli di ricognizione francesi. A Parigi la conferenza internazionale. In Ucraina gli osservatori OSCE sfiorati da colpi di mortaio mentre iniziano le manovre NATO ad Occidente, ancora giù il rublo sul mercato dei cambi. Nuovo caso di maltrattamenti in una scuola materna, sospese due maestre a Taranto, una era insegnante di sostegno per un bimbo disabile. Expo Sala a Radio 24, il turismo sta perdendo una grande occasione, i bronzi di Riace, dice Giovanni Minoli, sarebbe stato meglio averli a Milano. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Oggi vi trasmettiamo da Bari, dove si svolge la Fiera del Levante. Siamo ospiti dello stand della Regione Puglia, quindi se volete venirci a trovare, naturalmente, come sempre, fino alle 14 siamo qua. In apertura dunque parliamo di economia, perché sono arrivate questa mattina le nuove previsioni dell'OCSE e il taglio delle stime di crescita per l'Italia è veramente drastico. Abbiamo in diretta il collega del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qual è il quadro? Il quadro è di un mondo diviso in due, ci sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada che crescono del 2,1, 2,2, 3,1 addirittura Londra, mentre poi c'è un'altra parte del mondo che è l'area euro che crescerà solo dello 0,8% con dei picchi differenziati, ma tutti quanti in una situazione di grave debolezza, come ha ricordato il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che continua a chiedere e a sostenere la necessità di aumentare competitività attraverso le riforme strutturali. L'OCSE non fa altro che dare corpo, dati, analisi a questa visione che la Banca Centrale Europea e in qualche modo la Commissione Juncker sta dando appunto ai paesi membri per sollecitarli a darsi una sveglia definitiva per ridurre il costo del lavoro, perché questo è uno degli elementi chiave, e rilanciare appunto la produttività di questa parte del mondo che fa sempre più fatica a stare all'altezza della situazione. Grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti, ed è naturalmente tutto questo, la scarsa crescita, al centro dell'attenzione dell'esecutivo, al centro dei ragionamenti sull'economia, ma oggi sicuramente la giornata del Presidente del Consiglio e dei Ministri è stata dedicata alla scuola. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta in questo primo giorno di Renzi, che lo ha visto a Palermo. Vincenzo. Sì, buongiorno Simone, è così, inaugurazione dell'anno scolastico a Palermo. Abbiamo Vincenzo Miglietta? No, evidentemente sì, abbiamo un problema con Vincenzo Miglietta, adesso lo recupereremo. Intanto vediamo di sentire in che condizione apre la scuola tra mille difficoltà, tra classi che ancora non hanno gli insegnanti. Scuola al via oggi per gran parte degli studenti in una quindicina di regioni, con i ministri che hanno risposto all'appello del Premier tornando nei loro vecchi istituti per confermare in prima persona che l'esecutivo considera la scuola una priorità. Ma al rientro dalle vacanze studenti e professori devono affrontare i problemi di sempre, dagli organici dei docenti fermi e ridotti all'osso mentre gli allievi aumentano, alle classi sovraffollate e a rischio sicurezza. I 15.000 docenti che verranno assunti, come disposto dal governo la scorsa settimana, andranno infatti a sostituire quelli andati in pensione, quindi il numero totale non cambierà. Da qui il rischio delle cosiddette classi pollaio. Tra i problemi da risolvere anche quello dei vincitori del concorso del 2012 che attendono ancora la loro immissione in ruolo. A Milano, poi, ad esempio, non è ancora stato nominato il nuovo direttore dell'ufficio scolastico regionale, che dovrà sostituire Francesco De Santis, ormai pensionato, e il cui posto è ancora vacante. Pare manchi l'intesa sul nome del nuovo provveditore, esattamente come avviene per le poltrone dei politici. Ma la scuola non può attendere. Per questo anche oggi non sono mancate le proteste di studenti e precari. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo proprio a questo, alle proteste di studenti e precari, perché il Presidente del Consiglio ha subito anche delle contestazioni nella sua visita a Palermo. Vincenzo Miglietta, ci sei? Sì, è così, Simone, buongiorno. Inaugurazione dell'anno scolastico a Palermo per il Presidente del Consiglio. Renzi ha scelto l'Istituto Don Puglisi. Al suo arrivo è stato accolto con un applauso dai bambini della scuola. All'esterno invece un gruppo di manifestanti ha urlato buffone, lavoro, lavoro. È stato lanciato anche qualche petardo. Quindi il saluto del Premier Brancaccio è la capitale delle scuole d'Italia, ha detto Renzi rivolgendosi agli alunni e ai docenti. È stata l'occasione poi per parlare del nodo dei precari. Nella scuola ci sono 149.000 persone che hanno l'obbligo di essere assunte, ha detto il Presidente del Consiglio. Ascoltiamo questo passaggio. Tutti coloro i quali hanno assunto un diritto, una obbligazione, o meglio, verso i quali lo Stato ha assunto un'obbligazione, vale a dire quelli che fanno parte delle graduatorie a esaurimento, saranno assunti nel settembre del 2015 con il nuovo anno scolastico. Però noi chiediamo di cambiare le regole del gioco e diciamo anche ai docenti e agli insegnanti: guardate, noi siamo disponibili a portarvi dentro, ma voi aiutateci, l'ho detto dentro, a valorizzare il merito. Meritocrazia da una parte e fine della cosiddetta supplentite dall'altra, le linee di intervento del governo. Quindi il tema della mafia, il ricordo di Don Puglisi nelle parole del Premier, poi la riflessione: la mafia è ancora forte, non solo a Palermo, anzi soprattutto al nord per le sue connessioni economiche, ma noi siamo qui per fargli abbassare la testa. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Ora passiamo agli esteri, una pagina ricca e importante in questa giornata, partendo dalla situazione in Iraq, dove in mattinata i caccia francesi dovrebbero già aver iniziato i sorvoli di ricognizione. Si prepara dunque l'operazione militare voluta da Obama. Partiamo da qua, partiamo da Parigi. L'obiettivo di questa conferenza è quello di fornire all'autorità irachena la soluzione politica necessaria per lottare contro l'ISIS. Con queste parole François Hollande ha aperto il summit, in corso a Parigi, della coalizione di paesi contro la minaccia jihadista. Il presidente francese ha aggiunto: «La minaccia terroristica è globale e deve avere una risposta globale». Ha esortato inoltre i partner occidentali ed arabi ad impegnarsi con forza, chiarezza e lealtà a fianco dell'Iraq, appellandosi ad un'indispensabile unità sul fronte internazionale e concludendo che la battaglia da combattere è anche contro l'indottrinamento dei nostri giovani. Il presidente iracheno Fuad Massoum, anche lui presente ai lavori, ha sollecitato gli alleati per un intervento aereo rapido al fine di impedire all'autoproclamato califfato dell'ISIS di conquistare ulteriori territori iracheni. Intanto, l'ayatollah Khamenei, guida religiosa suprema iraniana, nonostante una dichiarata contrarietà all'affermazione dell'ISIS in Iraq, ha confermato il no dell'Iran ad una richiesta di collaborazione contro i terroristi da parte del governo americano. Confermate invece le adesioni di diversi paesi arabi già pronti a condurre bombardamenti e dell'Australia, che ha annunciato l'invio di un contingente di 600 militari e 8 aerei da combattimento. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come spesso in queste occasioni, per un commento, per un'analisi, abbiamo in diretta l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua. Buongiorno a tutti voi. Allora, siamo alla composizione finale di questa alleanza contro l'ISIS. Che risultati può ottenere secondo te? Beh, innanzitutto è un'alleanza che si basa soprattutto sui raid aerei, cioè poi bisogna vedere chi combatterà l'ISIS sul terreno. La mancata presenza a Parigi dell'Iran, e questo giustifica il no di Khamenei e il fatto che sul terreno in Siria sia l'esercito di Bashar Assad, cioè di un altro avversario degli Stati Uniti e dell'Occidente, a combattere realmente contro il califfato, ce la dice lunga su quale sia la situazione oggi. Non sarà soltanto con i raid aerei che si potrà battere sicuramente il califfato, questo lo sanno tutti. Allora, Alberto Negri, io intanto ti ringrazio per questa tua rapida analisi. Noi adesso dovremo passare a parlare di Ucraina, dove questa mattina a Donetsk gli osservatori dell'OSCE sono stati sfiorati da colpi di mortaio. Nel frattempo sui mercati, specie su quello valutario, si continuano a far sentire gli effetti delle sanzioni, e sull'altro confine ucraino, quello occidentale, iniziano le manovre dei paesi NATO. Dunque iniziamo a sentire il servizio su questo aspetto. A testimoniare l'inizio delle esercitazioni militari nella provincia di Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina, sono le foto pubblicate da diversi giornali russi che ritraggono l'ingresso di alcuni carri armati tedeschi nel paese. Alle operazioni militari in Ucraina occidentale, che proseguiranno fino al 26 settembre, partecipano circa 1200 soldati di 14 stati occidentali, tra cui Stati Uniti, Germania, Polonia e Gran Bretagna. L'operazione, denominata Rapid Trident 14, si terrà al poligono Yavorivsky e verrà coordinata dalla NATO. Secondo quanto dichiarato dal ministro della difesa ucraino, inoltre, la stessa NATO avrebbe consegnato all'esercito regolare armi per combattere i separatisti filorussi, una notizia non ancora confermata ma che era stata discussa nel corso di alcuni incontri bilaterali all'interno del vertice NATO in Galles all'inizio del mese. Intanto in Russia le nuove sanzioni economiche entrate in vigore venerdì scorso hanno trascinato il rublo a nuovi record negativi. Questa mattina è stato raggiunto un primato storico per la valuta russa contro il dollaro. La moneta americana ha infatti superato per la prima volta i 38 rubli, pari a quasi a 50 rubli per un euro. Miriam Corgia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torneremo più avanti a parlare di Ucraina, ci collegheremo con un giornalista che si trova a Donetsk, una delle zone dove naturalmente si stanno svolgendo le battaglie e dove appunto sarebbero stati bersagliati o quantomeno sfiorati da colpi di mortaio gli osservatori dell'OSCE, ci faremo dare un quadro della situazione. Intanto noi passiamo alla politica italiana, a partire dal nuovo voto che avverrà questo pomeriggio per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Elisabetta Fiorito in diretta con noi da Montecitorio, mi pare che si rafforzi l'ipotesi Donato Bruno Luciano Violante, no? È così? Sì, proprio così, Simone. C'è stato un SMS di Forza Italia parlamentari azzurri in cui si sostiene Donato Bruno alla Consulta, Elisabetta Casellati e Luigi Vitali per il CSM. Dovrebbe quindi sbloccarsi la situazione dopo l'impasse della scorsa settimana sul nome di Catricalà, che poi si è ritirato. Sul caos in atto dentro Forza Italia, in pratica il cavaliere che non controllerebbe più il partito, smorza i toni Giovanni Toti. Ho letto interpretazioni peraltro azzardate, dice il delfino di Berlusconi. Altro candidato alla Consulta, ricordiamo, per il PD è Luciano Violante, che resta confermato, e arriva anche l'input del vice segretario Deborah Serracchiani. Il PD è sempre votato con senso di responsabilità, auspichiamo che le altre forze politiche agiscano con la stessa responsabilità, anche perché abbiamo fatto la nostra la sollecitazione del Presidente della Repubblica. Al voto quindi qui a Montecitorio alle 15, convocati senatori e deputati. Si teme però il partito del trolley, ovvero i parlamentari che ritardano il rientro a Roma. In aula, lo ricordiamo, occorrono i 3/5 dei voti parlamentari, quindi una maggioranza qualificata per eleggere un giudice della Consulta. Luciano Violante la scorsa settimana ha avuto 100 voti di meno, vediamo se riuscirà ad avere appunto questi 3/5 insieme con Donato Bruno. La Consulta poi sbloccherà anche le nomine del CSM. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Tra poco torneremo a parlare di tutto questo anche con Michele Emiliano, segretario pugliese del Partito Democratico e candidato alle primarie per l'elezione alla presidenza della Regione Puglia, appunto, visto che trasmettiamo tra l'altro da qua, dalla Fiera del Levante. Intanto siamo riusciti a collegarci con Donetsk, dove si trova Mattia Sorbi. Buongiorno Mattia, innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, che cosa ci puoi raccontare? Inizierei dalla questione degli osservatori dell'OSCE che, come ci è stato raccontato, sono stati sfiorati da colpi di mortaio. Che cosa ne sai? Sì, assolutamente sì. Mi sono appena recato con il cameraman qui che ho e ci siamo recati sul posto, siamo appena tornati. E la situazione di questo mercato, avendo la vista coi miei occhi, è la classica situazione di un mercato completamente distrutto. Purtroppo ci sono state varie vittime, non si sa ancora quante, si dice 12, ma il dato non è ancora confermato, e il mercato appunto di Putilovska, appena 10 minuti da dove mi trovo di macchina, dentro la città, è stato centrato in pieno per il solo fatto di essere collocato molto vicino all'aeroporto di Donetsk, che in questo momento è ancora in mano alle forze ufficiali ucraine, che si difendono all'interno dell'aeroporto e sono circondate completamente dai miliziani filorussi. Allora, grazie a Mattia Sorbi per questi aggiornamenti da Donetsk. Siamo in grado di collegarci con Michele Emiliano, segretario pugliese del Partito Democratico e candidato alle primarie per la presidenza della Regione Puglia. Emiliano, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, la prima domanda che le voglio fare, poi ci prenderemo un attimo di pausa per il traffico e ritorneremo da lei, però una domanda gliela voglio fare. Abbiamo appena parlato di questa elezione parlamentare per la Consulta, per la Corte Costituzionale. Io vorrei sapere, lei anche da ex pubblico ministero, quindi da uomo, come dire, di legge, da uomo che è stato nel settore, per così dire, cosa pensa di un'ipotesi Donato Bruno Luciano Violante? Naturalmente puoi immaginare quanto sia difficile dare giudizi sulle persone e soprattutto cercare di comporre questo puzzle così complesso, perché la Corte Costituzionale non è un giudice come tutti gli altri, è un giudice che non applica la legge ma la verifica alla luce della Costituzione, quindi la personalità di ciascun giudice costituzionale ha un rilievo molto, molto importante. Senta, decide. Prego. In assoluto, non le sembra succede sempre per carità, però un balletto un po' degradante il fatto che i giudici della Corte Costituzionale vengano scelti insomma in base a scontri e accordi politici in questo modo? Ma succede la stessa cosa per la Corte Suprema americana, nel senso che la scelta di un giudice della Corte Suprema, che ovviamente è un processo politico, non è un concorso come per i giudici ordinari o per il TAR o per la Corte dei Conti, si tratta di un processo politico che cerca di inserire nella Corte Costituzionale delle personalità la cui storia tecnica come giuristi ma anche politica ha un peso molto rilevante e dunque la Costituzione vuole che questa scelta avvenga da parte del Parlamento proprio per questa ragione. Non ci si deve meravigliare di ciò che è nella struttura della Costituzione repubblicana. Allora, noi ci fermiamo un attimo per il traffico e poi vorrei fare un altro paio di domande a partire dal TAP, dal tema del TAP, il gasdotto. Sono iniziate le proteste, sono iniziate ieri dopo questo sblocco voluto dalla Presidenza del Consiglio, ne parliamo subito dopo il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Per l'OCSE il PIL italiano sarà in contrazione nel 2014, meno 0,4%. La scuola al via, Renzi fischiato a Palermo, si parte tra buchi per supplenze non assegnate, carenze di materiale, classi sovraffollate. Si prepara l'intervento militare in Iraq, partono i primi voli di ricognizione francesi. In Ucraina gli osservatori OSCE sfiorati da colpi di mortaio mentre iniziano le manovre NATO ad Occidente. Un nuovo caso di maltrattamenti in una scuola materna, sospese due maestre a Taranto. E siamo con Michele Emiliano, segretario del Partito Democratico in Puglia e candidato alle primarie per la presidenza della Regione Puglia stessa. Vorrei sollecitarla sul fatto che sono iniziate già le proteste per il gasdotto TAP, il gasdotto che dovrebbe portare in Europa il gas dall'Azerbaigian e che arriverà sostanzialmente in Salento, avrà il suo terminale in Salento. All'apertura, già all'apertura della Fiera del Levante, dove siamo ospiti qua nello stand della Regione Puglia, si è avuto una sorta di marcia dei sindaci della zona per protestare contro il TAP. Io vorrei capire un attimo come giudica lei la cosa e se secondo lei la questione è stata gestita in maniera efficace. Allora, prima questione, l'opera ha carattere strategico, serve a emancipare l'Italia e l'Europa dal gas russo e quindi in questo momento particolarmente delicato della crisi ucraina questa cosa è ancora più evidente. Secondo, la vicenda non può essere gestita con la tecnica che quando una cosa arriva a casa tua la rifiuti per principio. Evidentemente però tutta questa storia è stata gestita malissimo, perché l'approdo naturale di questo gasdotto poteva tranquillamente essere un tratto di costa già industrializzato, pesantemente industrializzato. Viceversa è stata scelta la spiaggia forse più bella della Puglia, obiettivamente dal punto di vista psicologico il fatto che questo tubo sia pure invisibile, passi sotto una spiaggia che sembra una spiaggia dei Caraibi, onestamente non sembra la scelta più intelligente da parte di chi vuole costruire questo gasdotto. Rimane la possibilità possibilità che il Presidente del Consiglio ha offerto a tutti di indicare un luogo diverso dove questo gasdotto deve arrivare. Quel che è certo è che TAP si farà, si deve fare, perché l'opera ha carattere, come ho già detto, strategico, e noi non possiamo rifiutare di svolgere questo ruolo importantissimo non solo per l'Italia ma per l'Europa intera. Senta Emiliano, ma quindi lei ha parlato con Renzi, cioè l'ipotesi di un luogo diverso di approdo del TAP è in campo? È in campo se la Regione Puglia, che devo dire da questo punto di vista forse ha perso qualche battuta, indicherà una zona diversa. Non rientra nei doveri della Regione indicare un approdo diverso, perché è il richiedente che chiede la concessione o comunque i permessi. Però è evidente che nella relazione col privato la Regione Puglia può ben indicare un altro luogo, e probabilmente siamo ancora in tempo a spostare l'opera in un altro luogo, ma il tempo massimo sta per scadere. Un'ultima domanda che le voglio fare, una sua valutazione sulle vicende che riguardano l'Emilia Romagna, l'indagine su due candidati, o meglio, uno è un ex candidato alle primarie della regione. Lei ritiene che Bonaccini dovrebbe ritirarsi? Io conosco Stefano Bonaccini molto bene, è un mio amico personale, è l'uomo più per bene che io conosca, assieme ad altri ovviamente. Escluderei nella maniera più categorica che abbia utilizzato denaro pubblico in maniera impropria. Credo peraltro di aver letto che l'indagine probabilmente è indirizzata verso l'archiviazione. L'Emilia non può perdere una persona importante come Stefano per un'indagine che peraltro non ha dimostrato ancora nessuna colpevolezza. Grazie a Michele Emiliano, segretario del PD in Puglia, candidato alle primarie per la presidenza della Regione Puglia medesima. Tra un attimo andremo a parlare di sanità e della protesta delle regioni, in particolare quella più forte, quella delle regioni a guida leghista, che sono Veneto e Lombardia, ma prima ci preme fare un punto sulla giornata sportiva di ieri con Giovanni Capuano in studio da Milano. Giovanni, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Allora, una messe di gol pazzesca. Sì, usciamo da una domenica folle, piena di gol, soprattutto gol delle due milanesi, e anche con qualche verdetto, perché non è stata una domenica banale. Ad esempio, oggi a Napoli è il giorno delle riflessioni dopo il KO contro il Chievo e la contestazione del pubblico a Benitez e De Laurentiis per una partenza difficile dei partenopei in questa stagione. Lo ricordiamo, c'è già stato da assorbire il colpo dell'eliminazione dal preliminare di Champions League. Il Milan invece, Milan che è salito in testa alla classifica con Juventus e Roma, si chiede se sia lecito sognare un campionato di vertice, che è una prospettiva assolutamente impensabile fino a qualche settimana fa. A rubare la scena è stato ovviamente il 5-4 di ieri sera a Parma, una saga di errori, colpi di classe, ribaltamenti di scena che riporta indietro le lancette del tempo e che ha fatto il giro del mondo sui giornali e siti sportivi. Pensa Simone che il video della papera del portiere Diego Lopez, quella specie di autogol di De Sciglio ieri, che ha segnato il 5-4 definitivo, è uno dei video più cliccati ovunque, soprattutto in Europa. In realtà non è finita ancora la seconda giornata del campionato, si chiude questa sera con Verona-Palermo, poi domani c'è la Champions League, si comincia con Juventus-Malmo e oggi è uscito il nome dell'arbitro, sarà il polacco Marciniak. E poi oggi è anche il giorno della grande festa di Valentino Rossi, Simone, perché ieri ha vinto a Misano, un successo che mancava da 15 mesi e che ha portato con sé molti record. Intanto da ieri Valentino Rossi è il pilota di moto più longevo di sempre. Dalla prima vittoria in carriera sono passate 18 anni e 27 giorni. Il precedente record era di un altro italiano, Loris Capirossi. Da ieri Valentino Rossi si è preso anche questo primato. Ha detto: non sono mai stato così forte, nemmeno 10 anni fa andavo così. Chissà che non possa sognare di fare l'anno prossimo qualcosa di ancora di un po' più concreto. E noi lo speriamo perché ci diverte. E ti ritroviamo, Giovanni, a partire dalle 14 con tutti i convocati. Se volete intervenire è sempre l'800 24 00 24, per tutti i convocati naturalmente. Luca Zaia, presidente del Veneto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Allora, parliamo di sanità con lei. Che cos'è questa storia dello sciopero fiscale? Perché fino a giovedì l'abbiamo avuta anche ospite di Focus Economia. Sembrava che la posizione fosse un po' più morbida, no? E poi improvvisamente è scattata questa cosa, per cui dite, se il governo taglia la sanità, cosa peraltro, come dire, da quel che abbiamo capito, piuttosto incerta, soprattutto nelle forme, noi siamo pronti allo sciopero fiscale. Ma guardi, io direi che discuto anche le forme, perché se la verità è che noi dobbiamo puntare alla virtuosità, è bene che prima di venire con qualsiasi forma a tagliare in Veneto, tu fai in modo che tutti siano virtuosi come la mia regione, visto considerato che non lo dico per vanto, ma perché è riconosciuta a livello nazionale, che è una regione riferimento per i costi della sanità. Detta in soldoni l'applicazione dei costi standard. Spiegato alla signora Maria, se la pizza margherita costa 5 euro, non possiamo accettare che qualcuno ci porti la ricevuta con pizza che costano 60-70 euro. Quindi quando tutti pagheranno quella pizza 5 euro, allora discutiamo. Guardi, abbiamo dei costi che fanno rabbrividire, cioè l'acquisto di una garza che ha un differenziale anche del 620% sul territorio nazionale come acquisti della sanità. E direi che questa è una delle prerogative per far uscire questo paese dalla crisi, i costi standard, ovvero la virtuosità. Però a me sembra che il governo abbia rassicurato, cioè ha detto il taglio, se ci sarà, non può essere lineare, perché appunto non si possono punire le regioni virtuose. Sì, questo lo dice dopo le mie proteste, le nostre proteste, però altrettanto vero che si parla di un taglio, vorremmo capire che taglio sarà e perché si dovrà ancora tagliare ad esempio in regioni virtuose, non c'è solo Veneto, c'è la Lombardia, la Toscana, l'Emilia Romagna che hanno i conti a posto. Noi diciamo che invece se tu vuoi tagliare, intanto inizia a tagliare dagli altri. Guardi, nella modifica del titolo quinto si introducono i costi standard, però si dice ad esempio che non saranno applicate le regioni a statuto speciale, il che vuol dire che la Sicilia continuerà ad avere 22.000 forestali e il Veneto 400. Senta una cosa, quando è previsto il prossimo incontro col governo? Lei ha parlato con qualche ministro, ha parlato con la Lorenzina? No, guardi, io le so dire che noi molto probabilmente in settimana, spero entro giovedì, si farà un incontro tra i presidenti di regione, perché poi si andrà avanti veramente una situazione imbarazzante. Lei consideri che l'accordo sulla sanità e quindi la suddivisione dei famosi 110 miliardi tra le regioni, che è avvenuto con non pochi sacrifici, è un accordo che si è firmato non più tardi di un mese fa. Cioè non esiste in nessuna parte del mondo, lascio perdere anche l'esempio del privato, perché se da galera una roba del genere, che dopo un mese tu vai a dire alla tua controparte: guarda, mi sono sbagliato, devo rivedere l'accordo. Senta, proprio sulla base di questo, del patto per la salute che avete firmato, se vi fossero nuovi tagli alla sanità, diciamo un po' più mirati, no? Che risparmiassero le regioni cosiddette virtuose, la minaccia di sciopero fiscale resta in piedi? Guardi, da noi non si deve tagliare, punto e basta, ma non lo dico perché non vogliamo fare il nostro sacrificio, resta in piedi la minaccia e quindi le rispondo, però le dico anche che noi siamo disposti a fare la nostra parte, ma dopo che gli altri saranno come noi. Il problema è questo, cioè non ha senso mettere in discussione i ticket per gli over 65 in base al reddito, su quale si può discutere fino a quando non metti in condizioni virtuosità gli altri, perché sennò finisce alla fine che il conto lo paghiamo sempre noi. Grazie Luca Zaia, presidente. Grazie del Veneto, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. L'ISIS è una minaccia senza confini, bisogna agire presto, dice il ministro degli esteri Mogherini. Sono partiti i primi voli di ricognizione francesi sull'Iraq. Per l'OCSE il PIL italiano sarà in contrazione nel 2014, un calo dello 0,4%. La scuola al via, Renzi fischiato a Palermo, si parte tra buchi per supplenze non assegnate, carenza di materiale, classi sovraffollate. Nuovo caso di maltrattamenti in una scuola materna, sospese due maestre a Taranto. La borsa. Borse in diretta. Brutta giornata oggi, FTSE MIB meno 0,8%, FTSE All Share altrettanto bene oggi, solo Finmeccanica più 1,77%, Moncler più 1,5%, Campari più 0,78% e pochi altri, Pirelli, Intesa San Paolo, Ferragamo e Tots appena sopra la parità, più 0,06%. Che succede, Isabella Tasso, Radio Corriere sulle 24 ore? Ma le borse sono tutte negative tranne Francoforte, che beneficia del buon andamento del comparto dell'auto. A pesare sui listini sono i deboli dati economici cinesi usciti nel fine settimana, questi gettano un'ombra sull'andamento della seconda economia mondiale. La seduta risente anche delle attese per il voto sull'indipendenza della Scozia, che avverrà il 18 settembre, cioè giovedì. A Milano pesa il settore bancario, ancora una volta sotto pressione, meno 2,8% il Monte dei Paschi, meno 2,5% il Banco Popolare. Realizzi anche su ST e Buzzi, che perdono quasi il 2%, e prosegue il momento negativo di Eni, che perde l'1,1%. Questo è legato sempre all'inchiesta sulle tangenti in Nigeria. Isabella, in 30 secondi il mercato valutario, visto che abbiamo visto il rublo ancora in netto calo rispetto sia al dollaro che all'euro. Il rublo ancora in netto calo, l'euro si indebolisce anche lui ulteriormente a 1,29 e 19 dollari. Grazie Isabella Tasso, Radio Cori, il Sole 24 Ore. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E c'è un altro caso di maestre che saranno sospese dalla funzione dell'esercizio pubblico, per fortuna, perché si sarebbero rese responsabili di maltrattamenti nei confronti di bambini. Siamo in una scuola materna, in un asilo di Taranto, ed è in collegamento con noi Roberto Pititto, che è dirigente della squadra mobile di Taranto. Dottor Pititto, benvenuto. Buongiorno. Allora, ci può raccontare di questa operazione? Dunque, la nostra indagine ha avuto inizio grazie a una preziosa segnalazione di alcuni genitori di alunni che frequentavano la scuola materna, che avevano riscontrato nei loro figli un forte stato di inquietudine, disagio, nervosismo, assenza di volontà di frequentare la scuola. Naturalmente questa segnalazione è stata adeguatamente approfondita dagli organi investigativi, che concordamente con l'autorità giudiziaria hanno avviato alcune attività tecniche che hanno consentito appunto di accertare una serie di maltrattamenti. Avete fatto anche riprese, quindi, immagino. L'elemento forte appunto di indagine è indubbiamente rappresentato da alcune immagini che si fondano su alcune telecamere posizionate all'interno dell'aula, dove effettivamente abbiamo riscontrato alcuni maltrattamenti posti in essere dalle maestre nei confronti degli alunni, compresi fra un'età fra 3 e 5 anni. E senta, da quanto tempo lavoravano le maestre in quella scuola materna, in quell'asilo? Da molto tempo. Una delle due maestre lavorava addirittura dal 1999, l'altra dal 2005. Avete ipotesi, ci sono ipotesi che i maltrattamenti possano essere avvenuti anche in anni passati, oppure insomma è un episodio che ritenete limitato? Abbiamo svolto e naturalmente svolgeremo ulteriori approfondimenti. Sicuramente, sentendo alcuni genitori di bambini che avevano precedentemente frequentato quella scuola, abbiamo potuto appurare che magari alcune segnalazioni fatte dai bambini ai loro rispettivi genitori forse non erano state tenute in adeguata considerazione. E quindi nel momento in cui appunto abbiamo sentito i genitori, ci hanno fatto presente che magari qualcosina forse in quella scuola non funzionava già da prima. Brevemente, ma com'è possibile che, forse non lo dovrei chiedere a un poliziotto, però com'è possibile che la dirigenza non si sia accorta di nulla? La sua domanda è pienamente legittima e su questo naturalmente ci stiamo lavorando, perché non è assolutamente tollerabile questo. La ringrazio, grazie a Roberto Pititto, dirigente della squadra mobile di Taranto. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchesi, oggi dedicata alle elezioni in Svezia. Lentamente ma inesorabilmente l'elettorato di alcuni pezzi d'Europa curva verso le destre xenofobe. Negli ultimi mesi è accaduto in Francia con il clamoroso trionfo di Marine Le Pen, in Ungheria con l'avanzata di Jobbik, in Ucraina con Pravki Sektor, il cosiddetto settore destro alla guida della rivolta di Kiev, i cui militanti più duri sono membri e oggi a tutti gli effetti della nuova polizia. E ieri l'incubo neonazista si è manifestato nella tranquilla Svezia, patria di una socialdemocrazia collaudata e consolidata da decine di anni. In Svezia vince il centrosinistra con una coalizione che comprende socialdemocratici, verdi e postcomunisti, ma non è maggioranza assoluta e l'ultradestra supera per la prima volta il 10%. Il partito si chiama Sveriges Demokraterna e in Italia è poco conosciuto. I suoi militanti sono i populisti xenofobi guidati dall'abile giovane Jimmy Akerson, affiliati a Luke britannico nell'Europarlamento, così simili al Fronte Nazionale francese, all'ungherese Jobbik. Certo, in campagna elettorale diversi loro candidati hanno ripulito i loro profili Facebook da dettagli compromettenti, hanno moderato il linguaggio nei comizi, si sono spinti a negare l'ultranazionalismo anti-immigrati, ma le loro radici restano, come le foto che li ritraggono davanti ad un altarino zeppo di croci celtiche, busti di Hitler, croci uncinate. E il loro vero volto si è visto non più tardi di sabato scorso, quando per la prima volta nella storia di Stoccolma 20.000 neonazisti hanno sfilato in mezzo ai giardini del re, a pochi metri dal Parlamento, in una provocazione senza precedenti. La Svezia resta una delle più forti economie europee, bassi tassi di disoccupazione, tasso in crescita del 12,6% del PIL e un deficit pubblico del 2,2%. Da ieri però sotto shock, perché il successo di Sveriges Demokraterna potrebbe sparigliare le carte della formazione di un governo stabile del paese. E ora parliamo di Expo, siamo all'80% dei lavori finiti, abbiamo 3-4 mesi di ritardo dovuti fondamentalmente al maltempo e a qualche guaietto giudiziario. Così il commissario unico dell'Expo, Giuseppe Sala, intervenuto questa mattina a Mix 24 di Giovanni Minoli, che è Mix 24 che è tornato dopo la pausa estiva. Sala è tornato anche stimolato dalle domande sulla vicenda dei bronzi di Riace. Senta, ma i bronzi di Riace, visto che parliamo di turismo, intanto a Milano non sarebbe stata un'attrazione sicura averli lì, sono una cosa meravigliosa, sì o no? Ah, qui sulle opinioni sono tante, la mia opinione è che sarebbe stata un'ottima opportunità, la mia opinione è anche che l'abbiamo gestita male, cioè non si può fare un annuncio benissimo, senza avere contezza. Gestita male, ma alla fine sarebbe meglio che venissero. Sarebbe meglio che venissero. 840 euro al giorno incassano a Reggio Calabria. Pochi. Senta, Renzi però dice che devono star lì e che voi porterete tutti a Reggio Calabria. Beh, non dobbiamo essere d'accordo su tutto, però portare tutti a Reggio Calabria sarà un po' difficile. Un po' più degli 840 euro. Con questo euro ci proveremo, certo. Senta, quindi vabbè, insomma, quindi Renzi, lei d'accordo fino a un certo punto su questo punto? Direi di no. Sul insomma tema del bronzi no, sulla maggior parte delle altre cose per fortuna sì, per essendo fortuna il mio principale azionista. Meglio andare d'accordo con gli azionisti. Senta. E così il commissario di Expo Sala, prima di andare al traffico, una notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Ascoli Piceno, dove ci sono due vittime in una sparatoria avvenuta nel Fermano a Molino Girola. Si tratta di due operai edili stranieri che sono stati uccisi dal loro ex datore di lavoro. Lo avevano affrontato a quanto pare armati di picozza, forse per farsi consegnare del denaro. L'imprenditore si trova adesso nella caserma dei carabinieri. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, in diretta da Bari, dalla Fiera del Levante. Saremo in diretta da qua anche domani nello stand della Regione Puglia e ospiteremo tra l'altro il presidente della Puglia, Nichi Vendola. I ringraziamenti Pietro Lacorte e Davide Ciocia per la parte tecnica qua a Bari, Laura Faggin qua a Bari in assistenza in redazione, in assistenza a Milano Alessandro Marco Tulli, in regia a Milano Gianmarco Ferronato. Grazie a tutti, dunque Effetto Giorno, @radio24.it per scriverci. Ci sentiamo domani alle 13:00.